Euroreportage. Europeana, la lezione della Grande Guerra nell'archivio digitale europeo, di Dario Ricci. Gli austriaci erano scappati dalla zona dove stavamo noi. E da lì cominciamo gli assalti, l'artiglieria. Noi avevamo poche armi, loro avevano tante armi, avevano tante belle di Dio da mangiare, però... Quando facevamo i primi prigionieri, brava gente pure loro, non erano mascalzoni proprio, erano comandati come noi, ammazzare. La voce di Carlo Orelli, l'ultimo fante italiano della Prima Guerra Mondiale, spentosi a 110 anni nel gennaio 2005, ricordava così la guerra di trincea, l'incontro con quel nemico che, una volta fissato negli occhi, diveniva nuovamente uomo, affratellato nella sofferenza. Siamo andati a vedere le cicatrici e le tracce che ancora oggi, dopo un secolo, la Grande Guerra ha lasciato in Europa e abbiamo incontrato alcuni degli uomini che ancora oggi preservano la memoria di ciò che accadde. Romagne-sur-Montfalcon, Francia, circa mezz'ora da Verdun, luogo simbolo della battaglia che per mesi contrappose francesi, inglesi e americani da un lato, tedeschi dall'altro. Jean-Paul Devrier è un signore di mezza età che proprio nel suo paese d'origine ha dato vita a una straordinaria raccolta di reperti bellici di ogni tipo per preservare la memoria di quei giovani che in quelle trincee sacrificarono la loro vita. Since I was 6 years old, Avevo 6 anni quando in un campo qui attorno trovai una baionetta e allora iniziai a interessarmi alla guerra, come capita a tutti i bambini. Cominciai a cercare nei boschi ed erano pieni di elmetti, fucili, ogni tipo di reperti. Ma a 19 anni scoprii alcune trincee e trovai alcuni corpi di soldati tedeschi. Questo ha cambiato la mia vita per sempre. Quegli oggetti che avevo trovato avevano ora un volto, una storia, una vita. E ora sento il dovere di raccontare ai giovani ciò che accadde in quella guerra, in cui combatterono l'uno contro l'altro soldati, che erano semplicemente esseri umani e che facevano solo il lavoro cui erano comandati. Jean-Paul ci guida tra i boschi intorno a Romagne-sur-Montfalcon, a saperli vedere tra la boscaglia i segni della guerra del 1914-18 sono ancora evidenti. Basta spostare pochi cespugli per ritrovarsi dentro a un bunker. Era l'ottobre del 1918. La guerra era alla fine. Eppure intorno a questo bunker si combatté una battaglia feroce. Centinaia di soldati americani da una parte e dall'altra, asserragliati qui, un manipolo di tedeschi, dotati però di potenti mitragliatrici. Torniamo in Italia, sul fronte del Monte Grappa, dove si decisero i destini del nostro paese e dell'Europa. Davide Pegoraro, giovane scrittore, giornalista e appassionato ed esperto di storia della Grande Guerra, ci accompagna a scoprire i luoghi del conflitto sulla cima del Monte Asolone, vetta strategica del fronte. Quelli che oggi sono dei verdi pascoli un secolo fa furono campi di battaglia. Vediamo come, proprio guardando verso nord, di fronte a noi ci sia una ampia conca. Questa conca era effettivamente il rifugio per la più parte delle truppe di presidio austro-ungariche presenti qui. Come mai rifugio? Perché giusto alla nostra destra sta nella sua maestosità il crinale di Cima Grappa, che oggi, come possiamo vedere, ospita effettivamente poi l'ossario, no? Lì lo vediamo. Quella postazione era munitissima d'artiglieria e teneva sotto controllo, bombardandolo costantemente, questo settore. Quindi l'unico rifugio per queste truppe era lo stare dentro a questa conca. Viceversa, il circolo che compone la cresta di questa conca era presidiato da chi? Dalle vedette. Qui gli austriaci, nell'estate del 1918, tentarono l'ultima disperata offensiva. Ogni cosa andava trasportata a mano, e quindi il munizionamento, le cassette per le mitragliatrici, le bombe a mano, l'acqua, immaginate ecco, combattere con il sole cocente, con dei vestiti fatti di panno molto grossi, no? Con questo peso, il fucile, le bombe a mano, l'elmetto, cioè parliamo di 30 kg da trasportare a persona. Quindi tanti furono i fattori che impedirono agli austro-ungarici di sfondare, uno su tutti comunque la magnifica resistenza dei soldati italiani. A Romagna sur Monfalcon, come sul Grappa e sull'Asolone, l'odio di allora ha lasciato il posto al silenzio e al ricordo, che unisce oggi vinti e vincitori in tutta Europa. Bollettino della vittoria. Comando supremo, 4 novembre 1918, ore 12. La guerra contro l'Austria-Ungheria, che sotto l'alta guida di Sua Maestà il Re Duce Supremo, l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi, iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi e vinta. Novembre 1918, si chiude così la Grande Guerra. Dal 1914 il primo conflitto mondiale insanguinava l'Europa, milioni i morti, 650.000 i soli soldati italiani. In quelle trincee non si intrecciano solo i destini del continente, ma anche le storie, le vite della sua migliore gioventù sacrificata sull'altare del conflitto. A un secolo dalla Grande Guerra, quelle storie, quelle testimonianze, quei cimeli che ancora oggi ci raccontano quei destini, quelle vite, rivivono nel progetto Europeana 1914-18, un programma continentale di raccolta e catalogazione digitale di memorabilia e cimeli posseduti dalle famiglie di chi su quei fronti combatté. Diversi i punti di raccolta in tutta Europa, in Italia, a Trento, Roma e nelle valli del Pasubio. Ogni oggetto, un destino, una storia da raccontare. Sentite questa signora. Io ho trovato in un cassetto qualche tempo fa alcune foto che adesso ho pensato di portare per rendere poi disponibili a tutti, che sono di mio padre, che era un ragazzino quando è entrato in guerra, perché era di quelli che del 98, quindi ha fatto questa esperienza giovanissima. Ho trovato qualche foto e ho trovato anche una cartolina del periodo della guerra, con una medaglina in cui c'è una frase a sostegno dei combattenti. Allora mi sembra giusto far sì che questa, insomma, non si perda in mezzo a, poi alla fine le cose, se non vengono date, si perdono nel nulla. Basta un semplice foglio di carta per intrecciare decenni di storia familiare. Sentite quest'altra testimonianza. Una lettera testamento che questo mio zio, fratello di mio papà, scrisse dal fronte quando era in trincea sull'Isonzo. E praticamente è l'ultima lettera che noi abbiamo in famiglia, e lui la scriveva perché nella lettera dice che si rende conto del pericolo, perché in trincea queste granate scoppiano da tutte le parti, e siccome aveva un figlio di 3 anni che aveva già perso la mamma, quindi era un orfano, allora affida all'altro fratello più grande, che era un sacerdote, affida questo bambino e si raccomanda di non dire niente invece alla mamma, che è anziana e potrebbe preoccuparsi. E questo è l'ultimo testamento che abbiamo, insomma. Lui è sepolto perché poi sull'Isonzo fu ferito, fu preso prigioniero dagli austriaci e in prigionia dopo poco tempo morì, e adesso riposa nel sagrario al re di Puglia, dove io sono andata a trovare la tomba, l'ho ritrovata, c'è il suo nome e cognome, Arcangelo Sperduti, la data di nascita e la data di morte. Non solo memoria. Europeana 1914-18 parla anche alle nuove generazioni, come ci spiega il professor Marco Pizzo, direttore del Museo del Risorgimento. C'è un messaggio di estrema condivisione. Cioè, si capisce che l'Europa, che si affrontò in armi, si distrusse, si ammazzò durante il 14 e il 15, oggi invece è un'Europa unificata e recuperando le proprie radici, i propri documenti, le proprie narrazioni storiche e personali, capisce innanzitutto l'inutilità della guerra, ma poi, cosa fondamentale, che l'Europa è comunque la nostra vera unica madre. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.